Ti dico Blood into Wine è la storia, praticamente un documento sulla storia di Maynard. Che cosa ha fatto questo straordinario cantante nonché leader dei Tool? Non so se mi spiego, leader dei Tool. È andato in Arizona, dove si dice che non cresca mai nulla, anche se ti metti lì a piantare le cose non cresce nulla, e lui ha fatto una vigna e fa il vino. E il punto è, com'è sto vino? Buono. Chi lo dice? Lo dicono gli esperti. Ah, ok. Ha preso un grande enologo, Eric Glomsky, credo. Eric Glomsky. E ha fatto il vino. Guarda, ho anche il link qui. C'è anche il trailer. Ma tu l'hai visto? No. Speravo in te. Io mi occupo di musica. Tu allora, di cinema. Allora, adesso ho controllato. Questa cosa non è uscita da nessuna parte. Lui è andato in questo paesino, una città fantasma praticamente, dove non ci abita quasi più nessuno, sono 300 anime, e ha detto: io qui faccio il vino. E l'ha fatto. Allora, è uscito solamente in America, a quanto vedo. Questo, finché non ha una distribuzione internazionale, io non ho modo di vederlo. Comunque, registro questa informazione. Tu però, visto che sei andato a Cannes, dovevi informarti prima che ti informassi io. Ma non è passato a di Cannes. Di questo straordinario documento filmato. Non è passato a Cannes. Ma perché tu sei stato a Cannes? Ma guarda, ho scelto quest'anno di andare. Ho detto, ma sì, andiamo. Vabbè, parliamo dei film che sono usciti questa settimana. Il solito tram tram. Allora, questa settimana, come le settimane che amarissime ci aspettano, non esce quasi niente. Cioè, in realtà escono moltissimi film, ma fondi di magazzino, rimasugli, c'è qualcosina, ma insomma. Perché ci sono i primi caldi, perché tra poco inizia il mondiale, insomma, una cosa e l'altra ci attende. Vedo, con il mondiale si blocca tutto. A luglio però ricominciamo, dal 9 luglio, anzi già dal 2 luglio si ricomincia alla grande. Secondo l'altro ospite che doveva entrare intervenire in diretta, invece non è potuto intervenire, ha chiamato solo ora. Vabbè, ma sono ospiti di farlocchi, l'unico vero ospite qua sono io. Allora, stavi dicendo? Dai. Partita di calcio, l'Italia che sì, uscirà al secondo turno. Può essere, riusciamo a fare questo viaggetto in Sudafrica, così è una cosa di piacere. Dal 2 luglio si ricomincerà la grande. Dal 2 luglio ufficialmente ricominciano le vere uscite cinematografiche. Perché finiscono i mondiali il 2 luglio? Da più o meno, insomma, dal 2 luglio si ricomincia. Poi chiaramente ricominciano con target non mondiali, cioè si ricomincia con un film indirizzato a giovani ragazze, poi con un altro film della Pixar, e poi si ricomincia, la macchina si rimette in moto. Quindi parti, vai in vacanza. No, io continuo a lavorare per il futuro. Cioè, tutta una cosa, lascia stare, guarda. Va bene. Va bene. Però invece, no, questa settimana, adesso nel marasma di pregnacce, questa settimana escono questi film piccoli, di cui alcuni interessanti. Perché io comunque stiracchiata, scandale. Stiracchiata. Allora, innanzitutto devo segnalare una cosa straordinaria. Esce, io non l'ho visto, però volevo segnalarvelo che esce, Backward. Si chiama Backward, ma è italiano. È un film di Max Leoni da Bastoni, il nome del regista, cioè, italo-americano, che vince il premio Macho Capatonda per il nome del regista, con Randy Ingerman, Ludmilla Radchenko, vabbè. Scritto con la collaborazione di Stefano Tacconi, portiere della Juve. Esatto, portiere della Juve. Ma che dici? Esatto. Ed è una storia di calcio, però di questo calcio moderno malato che ha perso i veri valori di una volta. Ah! Esatto. Doping, scommesse, esatto, di tutto di più. E per chi voglia vedere il trailer, ripeto, si chiama Backward di Max Leoni da Bastoni, per chi vuole vedere il trailer, almeno dal trailer, che l'unica cosa che ho visto ce n'è da ridere. Sì, eh. Ma questi furono dei grandi, questi furono. Guarda, hanno fatto però una mossa. Mi stanno simpatici perché hanno fatto una mossa da cinema italiano anni 70, quello disperato, quello che era pronto a dire qualsiasi fregnaccia pur di fare incasso. Hanno annunciato tipo più di un mese fa. In televisione da Marzullo, io casualmente sintonizzato su Marzullo in televisione, cioè una trasmissione di cinema. Ti droghi, casualmente. Ti droghi. Ah, è una trasmissione di cinema, è lavoro. Insomma, hanno annunciato da Marzullo: presenteremo questo film a Cannes. Al che gli ho detto: porca miseria, ma questi con questo qui che sembra una fregnaccia vanno a Cannes, ma è incredibile, presentano il film a Cannes. Vado a vedermi il programma della stampa con tutti gli accreditati, tutti, e non lo trovo. Non lo trovo. Dico, ah, non è possibile. Vabbè, questi sarà una cosa parallela. Questi, dai, non possono mentire. Insomma, è saltato fuori. Questi sono dei grandi. Che in effetti l'hanno presentato a Cannes. Ma a Cannes città. Cioè, io arrivo a Cannes con la mia pizza in un albergo e lo proietto in camera mia. Cioè, una cosa totalmente staccata dal festival. Cioè, tra niente. Lo presentano a Cannes. A Cannes, esatto. Geniali, una genialata. E insomma, con questa mossa hanno conquistato un po' di prime pagine. Come vi ripeto, se vedete il trailer c'è un po' da ridere. E niente, però il film non l'ho visto. Magari è un piccolo magari capolavoro. È un capolavoro. Esce, dai. Comunque esce questa settimana. È uscito oggi. È uscito le proprio. Quattro volte. Sono io ad essere limitato oppure una boiata pazzesca? No, è proprio bello. Se, non voglio dire che se devo essere limitato. Lungi detto, da me, Ti hai detto che è limitato. Lungi da me. Però è un gran bel film. Questa è una domanda bellissima. A occhio e croce, quanti soldi si sta a fare la Guzzanti con Dracula? Mo te lo dico, perché adesso non ho neanche controllato bene l'incasso. Non molti. Il film si sta ripagando, ma non sta andando benissimo. Bisogna vedere se poi riesce a venderlo in televisione. Come si chiama quella canzone che hai fatto con la sfrattata di Trastevere? Trastevere. Che ne dici di Last Station, Isa? La Station purtroppo non l'ho visto, questo mi dispiace. È un film che è uscito settimana scorsa sulla vita di Tolstoi. È un film che purtroppo però non sono riuscito a vedere. Invece, questa settimana esce un film che io vi consiglio veramente. No, ma lo consiglio a tutti questo, senza a tutti. Si chiama Il segreto dei suoi occhi ed è il film che quest'anno ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero. L'Oscar. Esatto, ha vinto l'Oscar come miglior film straniero. È un film molto bello. È uno di quei classici film che sono tratti da un libro. Si vede, si capisce dal tipo di trama. È un giallo. Ed è un giallo con... I gialli solitamente hanno una sorpresa alla fine, che solitamente non sorprende per nulla. Questo invece sorprende veramente molto. È molto sorprendente. È un gran bel finale. Devo ammettere che tra l'altro io nel finale sono rimasto anche abbastanza sconvolto. La trama è molto semplice. È un film che fa avanti e indietro tra presente e passato. Cioè, nel presente c'è un uomo anziano che intende ritornare su un suo vecchio caso, e quando perché vuole scriverci un libro su questo caso, e nello scrivere il libro e quindi nel ripassare quello che era successo, noi vediamo anche le immagini degli anni 70, perché è un film argentino-argentine degli anni 70, e di queste indagini. Era un caso di uno stupro e omicidio. Ma allora è un film straordinario. Perché? Perché ha una trama gialla molto ben narrata, molto bella, che ha poi, sai, solitamente come capita in questi gialli, poi in mezzo c'è anche la storia di chi investiga, cioè questo investigatore che magari ha degli amici, ha un amico particolare, ha l'aiutante, in questo caso l'aiutante è di un'arguzia straordinaria, ha un amore, ha una storia sentimentale. In questo film queste storie parallele sono fatte benissimo, non prendono mai il centro della scena, cioè il centro rimane l'indagine, però il regista è bravissimo a raccontarle per piccole cose, per piccoli sguardi. Per cui non hanno il centro della trama, ma hanno il centro del cuore dello spettatore. E poi, questo lo dico a chi piace, a chi interessano queste cose, al centro del film c'è un piano sequenza da urlare, da alzarsi nella sala e cominciare a urlare di gioia. Addirittura. Sì. Io che me lo sono studiato bene ho scoperto che è un finto piano sequenza. In realtà piano sequenza si intende quando c'è una lunga scena in cui non si stacca mai, cioè la macchina da presa è sempre accesa, quindi diciamo è un'unica scena, girato in un'unica botta. Questa dura tipo 10 minuti, se non sbaglio, ed è tutto di corsa perché all'interno di uno stadio c'è un inseguimento all'interno di uno stadio durante la partita. Bellissimo. In realtà, dicevo, io me lo sono studiato in 2-3 punti, ci sono degli stacchi di, cioè digitalmente unito per sembrare unico, ma in realtà è stato girato separato. Però l'effetto è fantastico, è un effetto veramente veramente fantastico, perché all'interno della trama, senza anticipare nulla, loro a un certo punto andranno a cercare anche allo stadio se trovano questo qui, perché sanno che è un appassionato di sport, quindi forse sarà allo stadio. E ma guardate, è veramente un pezzo di maestria cinematografica rara. Comunque tutto il resto del film, come dicevo, è molto bello, molto empatico, molto sentimentale. Vedrete che gli attori sono bravissimi, sono questi attori sconosciuti argentini veramente pazzeschi, e come dicevo, con un gran finale che è un giallo importante. Ma è mai rincuorato, va, stasera mai rincuorato. Il segreto dei tuoi occhi, Juan José Campanella, italo americano, esatto. Italo argentino, naturalmente, come la maggior parte, esatto, degli argentini. Vabbè, altri film, niente. Altri film, questo, questa settimana, Universal Soldier è una cosa, non l'hanno neanche presentato alla stampa. Questa settimana, tra gli altri film, esce Gentleman Broncos. Ora, a differenza di Il segreto dei suoi occhi, io consiglio a tutti Gentleman Broncos. È un film che mi è piaciuto molto, ma consiglio ad alcuni. Con Van Damme. Sì, ma è una fregnata, non l'hanno presentato alla stampa. Ah, proprio. Sì, sì, è proprio della serie. Vabbè, dai, esce. Dicevo, esce Gentleman Broncos, che è un film che consiglio solo ad un certo tipo di pubblico. Adesso spieghiamo a chi. No, perché è un film americano demenziale, un umorismo demenziale, ma è un umorismo molto molto particolare. Ora, a me fa molto ridere, ma posso capire che non a tutti faccia ridere. Il regista è il medesimo di Napoleon Dynamite, se l'avete visto. Anche quello purtroppo però è un film che è andato in poche copie. E c'è quello stesso tipo di umorismo, ma secondo me Gentleman Broncos è anche meglio. È molto un umorismo di situazioni, di personaggi. Ci sono questi personaggi, è la storia di un ragazzo che vuole scrivere, aspira a diventare scrittore, e va a fare un seminario di scrittura in cui ci sta uno dei suoi miti, un grandissimo scrittore molto affermato. Partecipa a un concorso in cui invia il suo libro, questo famoso scrittore è chiamato a giudicarli, e siccome lui sta in crisi si fregherà l'idea del ragazzo. Questa è la trama su cui si innesta tutto il comico. Il comico però è dato dal fatto di questi personaggi ignobili, orrendi, vestiti totalmente fuori moda, totalmente cretini poi, ma in una maniera, e questo secondo me poi è il molto bello di Gentleman Broncos, in una maniera in cui è impossibile trovare del positivo. Cioè, spesso gli americani ci hanno abituato a avere o le commedie coi vincenti, cioè quei personaggi in cui che tu vorresti essere, oppure quelle commedie dei perdenti, che però in fondo sono migliori dei vincenti, cioè sono un po' degli sfigati ma hanno il grande cuore, il cuore d'oro, oppure si rivelano essere più abili dei vincenti, quindi sono dei finti perdenti. Invece in Gentleman Broncos questi sono degli orrendi sfigati, sono veramente disperati, bruttissimi. Ricordano un po' i film di Verdone, in cui c'è poi questa malinconia incredibile di questi personaggi che sono dei derelitti, che non puoi stare dalla loro parte perché sono orrendi. Però poi in questo essere orrendi sono anche grotteschi e ti fanno ridere. Gentleman Broncos è un po' così, sebbene poi non ha, ovviamente non ha l'umorismo di Verdone, che è un italiano, questo è un umorismo molto americano in realtà, questo. Però è veramente un'opera particolare, con delle musiche. Tu la conosci? In the Year 2525 di Evans, non mi ricordo chi. Evans. Sì, Evan Dando. No, Richard Evans. Richard Evans. Sì. Insomma, recuperano queste musiche, anch'esse orrende, orrende, ma orrende per banalità. E niente, crea un film veramente che secondo me vale la pena tentare di andare a vedere. Domande, non stai attento perché le quattro volte ce l'ha consigliato la scorsa settimana, davvero bello. Grande. Fuori discorso, oggi mi hanno licenziato, serve a qualcuno, una persona che sa scrivere, impaginare e lavorare le foto, così per caso, un bacio, Eleonora. Oltre a farti un in bocca al lupo perché ti possano, insomma, tu riesca a trovare lavoro immediatamente al più presto, a me non serve. Non so, tu hai il giornale, tu che sei il proprietario del direttore di sera. Giornale, no, purtroppo neanche a me serve. Però possiamo dire che sa scrivere, impaginare e lavorare le foto, e ha un grandissimo gusto cinematografico, perché ha amato Le quattro volte, che è uno dei, forse il film italiano più bello dell'anno. L'arca russa è davvero un unico piano sequenza? Arcarussa, ah. Sì. Arcarussa è veramente Arcarussa è un film folle di Alexander Sokurov, e racconta in un unico, non solo in un unico piano sequenza, ma la follia anche di essere una soggettiva. Cioè la soggettiva è quando tu vedi attraverso gli occhi di un personaggio. Tipicamente nei film di Argento c'è sempre la soggettiva dell'assassino. In Arcarussa tu hai gli occhi di un personaggio, quindi è come se fossi un personaggio, e cammina per un'ora e mezza, c'è un film, c'è una storia, cammina attraverso tutto l'Ermitage, tutto diciamo dentro il museo Ermitage di San Pietroburgo, e ogni stanza cambia, ci sono dei viaggi nel tempo, cambia epoca, ed è tutto molto sulla Russia, la storia russa. A un certo punto entra in una stanza e incontra l'imperatrice Caterina, e si chiude con un ballo fenomenale, una scena con centinaia di comparse, e tutto fatto con cioè accendendo una sola volta la videocamera e spegnendola alla fine. Ma non è possibile. 15 giorni di prove chiaramente, e poi 5 volte l'hanno dovuto fare per arrivare a quello perfetto. E non so, io ti dirò di più, in Arcarussa c'è un errore, io l'ho trovato ad un certo punto. Vabbè, proprio verso, ce ne saranno tanti di errori. Ok, diciamo uno, io ne ho trovato uno. Verso la fine, a un certo punto, il personaggio con cui solitamente si interloquisce, perché sono in due, uno è quello di cui tu hai la soggettiva e uno è il suo compagno che sta accanto a lui, il personaggio con cui solitamente si interloquisce balla in questo grande ballo finale, lo vediamo un po' lontano sullo sfondo, quindi è piccolo, non è molto vicino, e dice una cosa, dice, siccome quella persona con cui lui balla gli pesta il piede, dice una cosa tipo: ah, mi avete pestato il piede, una cosa di questo tipo, ma in realtà non muove le labbra. È stato aggiunto in post produzione perché evidentemente non era previsto che gli pestasse il piede, solo che erano arrivati alla fine e probabilmente non ricominceremo un'altra volta. Esatto. Certo, deve essere una faticaccia per il regista fare una cosa del genere. Esatto. Attenzione. Ah, ma tu dici Ricci Evans. Mi ricordavo Richard, ho sbagliato. Ricci Evans, sì, è quello pelato che cantava Freedom. Ah, no, non è quello, è nero. È quello nero, sì. No, quello dico io, un altro. Ah, Richard Evans. Allora, ma cerco bene, guarda. Qui, perché tu mi hai colto in fallo su Urvino Bloodwine, e io ti colgo in fallo su questo. No, Ricci Evans lo conosco a me, ma me la dico. Ah, vediamo, adesso controllo. Vabbè, dai, controllo. Blood into Wine, roba da matti, non l'hai visto. Zager and Evans, e lui si chiamava... Mai sentito in vita mia. È un duo famosissimo, tra l'altro. Zager and Evans, proprio Evans, per carità di Dio. Come fosse il... Guarda che non riesco a trovare esattamente quale fosse il suo primo nome, nome di battesimo. Ah, guarda che non c'è scritto, è incredibile. È famosissimo. Rick Evans, mai Rick sentito Evans. In vita mia. Rick Evans, vabbè, ho un buco nella tua cultura, vabbè, siamo per pari. Ma insomma, questo più che altro invece le notizie che vi devo dare, che mi sono un attimo, un secondo giusto perduto, è che sta fiorendo il 3D in sala. Il 3D dei contenuti alternativi. Cioè partite e tennis. Sì, quello te l'avevo detto già la scorsa settimana. No, me l'avevi detto tu, solo io che ho informazioni, adesso le sto recuperando. No, l'hanno detto in televisione. Ma lo so solo io. Rugby, anzi football americano, tennis e calcio. Allora, adesso ti dico io come stanno le cose. Il tennis è più semplice perché sono solo in due. Allora, aspetta. Ti devo dire le cose io, se non dovevamo fare io. Lo speciale sul 3D. Ma io sono pronto. Sul 3D a casa. Anche, ma poi alla fine abbiamo allargato perché a casa era un po' difficile, però adesso ci arrivo. Allora, tanto i film, c'è una schifezza. Allora, innanzitutto sappiate una cosa, che domenica 6 giugno a partire dalle 14:45 in diverse città italiane, anzi vi dico nel circuito The Space Cinema. Secondo, ma chi è che urla? Dicevi? Se questa è una radio così. Lo so, ci vuole pazienza. C'è gente che urla. Dicevo, domenica 6 giugno a partire dalle 14:45 nei cinema del circuito The Space, cioè che sono a Roma, sono il Warner Moderno e il Warner Village. Warner Moderno è quello di Piazza della Repubblica, che poi in realtà non si chiamano più così perché sono diventati circuito The Space. Però insomma, per capirci, ci sarà la finale Roland Garros. Tra l'altro hanno avuto, se non sbaglio, se non vorrei dire una fregnaccia che non segue il tennis, ma se non sbaglio c'è una regione italiana. Ma il tennis femminile? Alla finale è quella, no? No, Roland Garros c'è, cioè maschile e femminile. Ah, è vero, se prima è il femminile e poi il maschile. Certo. È vero. Scusa, se oggi è il 4 e quella arrivata in finale non l'ha ancora giocata, il 6 sarà per forza lei. Non lo sappiamo. qualunque finale di GL6, esatto, qualunque finale di GL6, se c'è anche un'italiana, pensa che fortuna che hanno avuto. Andrà nei cinema il tennis, che tra l'altro io mi sono informato, perché cioè un contenuto aggiunto alla notizia, esatto. Sì, bene. Io a parte ci andrò, perché pare che invece il 3D del tennis sia molto, molto migliore del 3D del calcio, perché si presta di più, perché comunque il campo te l'ho detto io pochi minuti fa. Per cui insomma dovrebbe essere più interessante, ripeto, il 6 giugno alle 14.45. Comunque i mondiali andranno nelle sale, io se vi dico anche quali, perché io ho i contenuti speciali, cioè ho qualcosa di più da dare, se trovo la notizia. Che tragedia. No, ma sono arrivato in ritardo, non mi sono riuscito a preparare in fretta. C'ho tutto. Se fossi arrivato prima, avresti tutto pronto e la trasmissione non subirebbe contraccolpi e lentezze che per una radio sono la morte dell'ascolto. Capisci? Allora. Sono proprio l'abbattimento dell'ascolto. La gente cambia canale. Allora, ce li ho, non cambia di stazione perché ce li ho. Allora, eccolo qua. Praticamente, i film in 3D delle partite dei mondiali saranno. Guarda che ho sbagliato. Cinema in 3D. Le partite saranno in 22 sale in tutta Italia. Roma è una delle poche città che ce ne ha due. Sono appunto questi due che ho detto prima. I prezzi dei biglietti, molto importante, saranno tra i 10 e i 15 euro a seconda delle partite. L'Italia sicuramente ci sarà, Italia-Slovenia. Ci sarà sicuramente. Per le altre bisogna vedere, però ci sono state già acquistate, però bisogna vedere il percorso che fa l'Italia, dipende. E questo è quanto. Questo è il cinema, il calcio in 3D. Poi 3D casalingo. Ah, 3D casalingo, bene. Solo che io devo saltare da una fonte all'altra. No, abbiamo tanto di quel tempo. Il 3D casalingo, allora io innanzitutto l'ho visto. L'ho visto anche io. Okay. Devo dire che si vede molto bene. Esatto, devo dirlo anche io. Si vede assolutamente bene. Tra l'altro io ho fatto anche la prova col sole. Cioè, di giorno in casa col sole che entra, mi fa casino per il 3D? No. No, lo so. Si vede bene. Te l'ho detto già io la scorsa. Ma bisogna fare attenzione a una cosa, perché stanno arrivando adesso che sta chiaramente, se arriva il 3D casalingo arrivano anche le videocamere 3D, cioè per girare i filmini in 3D. Bisogna fare attenzione perché sta arrivando il 3D farlocco. Che vuol dire? Cioè arrivano delle videocamere che non sono veramente 3D, ma sono 3D compatibili, tra virgolette. Ah. O 3D ready, come l'HD ready, esatto. Infatti si potrebbero chiamare anche 3D ready, solo che non, cioè, loro, anche loro dicono: non siamo cretini, già vi abbiamo fregato con 3D, con l'HD ready, troveremo un altro nome per fregarvi. E saranno 3D compatibili, quindi faranno il passaggio automaticamente. Insomma, non sarà la stessa cosa. Dovete fare attenzione che siano, quando arriveranno, siano effettivamente 3D, perché in realtà quelle 3D farlocche escono prima, chiaramente, o sfruttano il fatto di arrivare per primi. Già ce n'è una della Samsung, che è una piccolina della Samsung, che appunto... Vabbè, ma che fa? Riprende in 2D e poi lo trasforma in 3D? Non ho capito. Sì, fa un passaggio banale, lo fa male, senza criterio, senza guardare esattamente quanto è la profondità, senza considerare, perché poi 3D in realtà è uno strumento molto complesso, perché regolare per bene l'immagine a seconda della profondità che ha, regolare la stereoscopia è molto difficile, per questo le videocamere stentano ad arrivare, e queste qui invece fanno un passaggio così arbitrario, è come, sai, come le compatte, le macchine fotografiche compatte, che non hanno la vera messa a fuoco, ne hanno una così, giusto per fare, generica, che se sei tra i 2 e i 10 metri di distanza vieni a fuoco, punto. Però insomma non è preciso. Ricordiamo che i televisori in 3D saranno al plasma, caro mio. Questa era un'informazione che non avevo. Te la do io. Questa è un'informazione che mi dai tu. Bravo. Perché bravo. Il plasma è lo strumento che servirà proprio per il 3D. Hanno deciso che sicuramente si vede meglio dell'LCD. Sì, questo è sicuro. Anche un altro, proprio per quello, proprio per la nettezza, per la tecnologia. Nettezza sarà... urbana? Non lo so. Nitidezza? No, la nettezza proprio della visione, proprio dell'immagine, proprio la definizione dell'immagine. Uh-huh. Hanno optato, dovendo scegliere, per lo schermo al plasma. Quindi, occhio, perché se avete lo schermo al plasma attenzione, no, non potete usarlo, dovete comprare proprio il televisore 3D, ma attenzione perché anche lì avendo il plasma rischiate che vi rimanga la matrice sopra se stoppate il film da qualche parte o qualche cosa. Vi resterà per sempre la matrice di quello che avete stoppato. Quindi potete anche farlo, ma in un punto buono, cioè che sia poi estetico, bello da vedere. Esatto, se non altro. Esatto. E vi diventa un bellissimo quadro. Sì. Lo appendete, esatto. E potete anche dire: non sapete quanto l'ho pagato. Oh, per i videoregistratori invece, anzi per i lettori DVD, chiedo scusa. Gli altri DVD non si potrà mai perché il DVD non prende. Per il Blu-ray invece ha una capienza, capienza 30 giga. Esatto, no, anche 50, ha una capienza anche 50 giga e è assolutamente come dire in grado di supportare, perché il punto del 3D è che è doppio fotogramma. Ma serve un lettore preciso per il 3D? Cioè serve no, un lettore serve 3D? No, serve il televisore, perché il punto del 3D è questo. E che sono sostanzialmente due fotogrammi. E quindi diciamo è molto semplice dal punto di vista tecnico. Cioè immaginate che invece che avere i fotogrammi che vanno uno dopo l'altro, cioè un'immagine poi un'altra poi un'altra poi un'altra, la stessa immagine passa due volte. Solo chiaramente che passa talmente veloce che non ve ne accorgete, però è importante per il funzionamento tecnico. Quindi a livello di DVD, ovvero di Blu-ray, il film raddoppia di capienza. Poi deve essere per forza in altissima definizione, quindi è una capienza molto grande. E a livello di televisore, il televisore trasmette due immagini, una per l'occhio destro e una per l'occhio sinistro. Le trasmette una dopo quindi l'altra. Quindi il lettore non necessita, cioè non dovrebbe necessario avere... adesso. Poi il punto è che chi fa la tecnologia 3D. Poi è capace di qualsiasi cosa, però non dovrebbe essere un problema. Il punto è che invece il televisore deve esserlo, perché deve essere in grado di mandare due immagini a due polarità diverse. E deve essere poi, ogni televisore ha i suoi occhiali, chiaramente. Cioè se io ho il televisore Samsung fa gli occhiali che ti dà. E mica siamo cretini. Però il Samsung non credo faccia i plasma. Non credo faccia. Guarda, io ho visto un Samsung, ho visto 3D. Ah, il problema del Samsung purtroppo è il software che è lento come la morte. Sì, esatto, però io ho un Samsung e devo dire che gli aggiornamenti lo stanno, cioè migliora sempre di più con gli aggiornamenti, eh. Quindi se non altro, infatti l'ho comprato a un ottimo prezzo e aveva questo piccolo difetto, che è piccolo sul serio perché poi io non uso molto il digitale, però aggiornandolo sta migliorando sempre di più. Io confido in questa casa coreana. Speriamo. Anche perché i soldi l'ho spesi, per cui confido molto. Ormai hai fatto. Ce ne andiamo, non so se volevi aggiungere dell'altro. Prossimi film in uscita. Adesso ti dico subito. Vediamo se ho tralasciato qualcosa di fondamentale. No, non ho tralasciato nulla. Prince of Persia non mi è dispiaciuto. Certo, l'attore poteva essere meglio. Ah, tra l'altro, questo non l'ho detto, è importante. Bravo. Perché Prince of Persia era uscito qualche settimana fa, ma io non l'avevo visto perché io ero a Cannes. E quindi non l'avevo visto. Non lo sapevamo, non lo sapeva nessuno. Esatto, ero a Cannes, non l'ho potuto vedere. L'ho recuperato però. E allora arriva un messaggio che dice: Prince of Persia non mi è dispiaciuto. Certo, l'attore poteva essere meglio. Primo giugno non c'eri. Questo non ho capito, questa seconda parte del messaggio. Ah, erano venuti in tre pemmenate dalle crepe che dai, grazie. E per confermare, esatto, che bello il pubblico che mi ama. Per confermare la mia tendenza, dico che invece a me Prince of Persia non è piaciuto, perché io mi aspettavo un bel film d'avventura. Devo dire che dal trailer mi ci avevano convinto. Poi il regista Mike Newell a me piace e pensavo che avrebbero fatto un bel film tipo Il vento e il leone, quei film di deserto, capito? Epico, cavalli, deserti, spade, queste cose così. Invece è un film che secondo me sbaglia proprio il concetto di avventura. Cioè il bello del film di avventura è il luogo, è il fatto che appunto stai nel deserto, è che ci sono le scene con gli stuntman, capito? Che tu percepisci l'azione col corpo che si muove. Mentre invece questo qui è un film girato in interni, cioè sono quei film in cui al chiuso ricostruiscono un ambiente esterno, ma si vede. Cioè la luce è fitta, magari la persona, lo spettatore qualunque non si accorge che siamo in interni, però percepisce il falso, cioè una luce fasulla. Tant'è che le poche scene veramente in esterni, quindi nel deserto, già ti senti meglio, senti addio che bello, però sono poche. Primo è girato in interni, secondo è girato con 10.000 controfigure e con molti aiuti digitali per le scene d'acrobazia. Cioè si vede che a un certo punto lui passa dall'essere persona reale a essere personaggio digitale quando fa le mega acrobazie. Che è bruttissimo, cioè non è questo il film di avventura, non è questo quello che mi aspetto. Lui tra l'altro è poco credibile, infatti pure l'utente dice lui poteva essere meglio. Sì, è vero, è molto molto poco credibile come avventuriero. Avete parlato di 18 anni dopo? No, 18 anni dopo non l'ho visto purtroppo. Ero a Cannes. Che cosa? Ah, ero a Cannes. Grazie, ci sentiamo lunedì se tutto va bene. Ricordatevi sempre che una pietra che rotola lo accoglie mesugo. Venerdì prossimo ci sei, non è che vai a Cannes, no, a Venezia. Cioè, torno, non c'è più nessuno, ma io ci torno. Torni a Cannes. No, no, no, ci sono. Sarà una straordinaria puntata. Sì. Non esce niente, non ti faccio, ma sarà una straordinaria puntata. Preparati sul 3D casalingo. Abbiamo fatto oggi 3D casalingo. Abbiamo sviscerato tutto. Abbiamo fatto niente. Tutto abbiamo sviscerato. Marche, modelli, se il lettore DVD può bastare quello che uno ha. Se no, quello che serve. Vabbè, chiamo, sai che faccio? Chiamo Francesco Alò. Vieni lui, ecco, qua, facciamo un po', ecco, di cacciara. Fallo venire. La buttiamo un po' in cacciara. Fa venire uno che ne sa. Ma guarda che tecnologicamente sono molto più avanzato. Fai venire uno che le cose le sa. Vedremo. Grazie, ciao, a lunedì. Ciao.